Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Se la Lega ci mette in una condizione a 5 giorni dalla Champions di fare 5 partite in 12 giorni anziché in 15, se la condizione dei giocatori ci dice che necessitano di riposo, giocano del 23. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Dato dei gol subiti ci può preoccupare la partita di stasera? Chiaramente no, vieni da un campionato vinto, chiaro che a livello di motivazione, a livello di determinazione è una partita atipica e quindi va presa per quello che è. Poi se si parla di altri momenti è chiaro e dobbiamo diventare una squadra più solida, questo è evidente. Odio quando devo fare per forza gol, è una cosa proprio che non va giù, quindi però oggi però devo fare per forza per poter superare Lewandowski e quindi tenere un po' più staccato Ronaldo. Siamo molto meglio, la squadra sta motivata, sta sicura in questo momento. Oggi abbiamo creato molte situazioni per fare oltre risultato, dobbiamo iniziare a pensare nella partita con Siviglia. Noi dal 6 gennaio che siamo di ottimo livello e avremo una classifica da secondo o terzo posto in classifica, quindi non dobbiamo avere rimpianti, però dobbiamo essere bravi a finire bene. Flash dichiarazioni dalla penultima notte del campionato di Serie A. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Allora, io Radio Tweet oggi farei gli auguri, 75 anni portati benissimo. Tu già tua età, Stadio, 75? Sì, no, io ne ho 74. Sei un anno in meno. Esatto. Allora facciamo i tanti auguri a Corriere dello Sport Stadio, esatto. No? Che è la parte nord d'Italia. Ho allenato, ho giocato da quasi tutte le parti, quelle più importanti. Sì, hai fatto anche Catania, ma vabbè, comunque. Anche Catania c'è quello no, dello Catania sport. Però è quello dello sport. Stadio è quello verde, no? Quello verde. Invece Corriere dello Sport è quello rosso. Vabbè, mi piace più verde come colore. Sì, perché? Non lo so, rosso... Ho già capito. Auguri Ivan Zazzaroni. Ma io guarda che non ne ho fatti 75, già una notizia. Ah no? No, ne faccio più giovane. Molti di meno, li porto benissimo, ma non sono 75. Ma se li porti bene, perché si facevo più giovane. Anch'io mi facevo più giovane, ma sai cos'è? Lavorare poi ti invecchia, questo è fatto. Sì, non ho capito bene perché gli piace più il verde di quello rosso. Posso vabbè, solo... uno, adesso, ma io non meglio che non dica. Ha fatto un endorsement a Salvini una volta, no? Sì, no, l'avevo ma intuito. Anche. Ma sì, l'ho capito che era una battuta, direttore. Comunque 75 anni portati benissimo da Stadio. Devo dire che nell'intervista dice due o tre cose fondamentali. Cioè, la cosa più bella è quando lui si deve creare dei nemici apposta perché non ce la fa, e poi quando dice che non gli piace molto questo ruolo di Madonna Pellegrina. perché deve fare lui, che è un cattivo di dentro, cosa deve fare tutti sti no, li fa volentieri, ci mancherebbe altro. Però insomma, richieste continue di video e tutti lo guardano, lo vedono simpatico, buono, e vedi che nell'ultimo tempo sta cercando in qualche modo di cambiare, di invertire l'immagine, di riportarla all'origine. All'origine, esatto. Ma io non ci credo in fondo che Mihajlovic sia un cattivo, lo dipingono così. È anche fin troppo buono. Sentite tutti e due, siamo arrivati quasi alla fine, ma ci siamo divertiti in questo mese e mezzo in cui anche i catastrofisti sono stati smentiti. Anche Pierluigi Pardo si è divertito ieri sera a Catania per una partita a Catania, anche lì non... Cagliari, ovviamente. Comincia con caccia, il mare. E poi c'è Mihajlovic che è stato a Catania. Tutto questo mi ha confuso. Però ci siamo divertiti, no, Piera? almeno Sarri, secondo me, ci siamo. No, ma non ieri sera, in questo mese e mezzo, dicevo. Ah, in questo mese e mezzo, sì. Io questo, sai, che con Sinisa non sono d'accordissimo, nel senso che penso che comunque questo periodo sia stato un periodo comunque necessario e anche a tratti divertente. La componente pubblico, lo ripeterò fino allo sfinimento, manca la Matti, mi manca tutto, mi manca la salamella fuori dallo stadio, mi mancano i selfie con i tifosi, mi manca il traffico, mi manca la gente che suona il clacson dopo che ha vinto, insomma il calcio è questa roba qui e quindi questo è un dolore enorme. Ed è uno spettacolo, è il surrogato di quello spettacolo lì, però l'alternativa era stare fermi e io invece penso che ci siamo divertiti, ci siamo distratti e ci siamo presi un pezzo di normalità che il sistema economico calcio, grazie a questo mese e mezzo di partite così ravvicinate, comunque ha tenuto, ha avuto comunque un danno come tanti altri settori della vita del lockdown, ma i settori della vita. Sicuramente ha avuto un danno minore che se non si fosse giocato, e quindi alla fine secondo me è stata una scelta fatta con grande intelligenza, con filo di rischio che c'è in tutte le cose della vita, con grande senso di responsabilità, e dal punto di vista del divertimento secondo me è stato molto divertente lo spettacolo in campo, nel senso che queste partite ravvicinate hanno ulteriormente aumentato la imprevedibilità. Poi insomma speriamo che il ministro Spadafora, cioè speriamo che la curva, cioè il tema è sempre quello grande, no? Speriamo che ci siano le condizioni per poter a settembre o a ottobre, quando ricomincerà il campionato, avere tutti bel tema, allo stadio, o perlomeno un... Beh, da altre parti, in Francia, dove hanno chiuso tutto per tempo, fuori tempo e fuori anche logica, hanno ricominciato ad ammettere gli spettatori allo stadio, riaprirà Wembley, sebbene parzialmente, insomma si va in quella direzione lì. Lo chiedo anche agli ascoltatori, 800 24 00 24, ci sono divertiti, e a Ivan Zazzaroni dico che la battaglia del Corriere dello Sport Stadio, ma anche in parte nostra, valeva la pena. È inevitabile, cioè voglio dire, io ho smesso di pensare alle cose che mi mancano da molto tempo, perché come esco dal giornale o da casa vedo solo negozi chiusi, bar chiusi, ristoranti chiusi, quello mi manca realmente. Sì. Il pubblico è fondamentale nel calcio, perché lo si fa, il calcio è fatto per il pubblico, non è fatto per qualcun altro, evidentemente. Però in questo momento direi che è assolutamente secondario come problema. Chiaro che vogliamo che riaprano gli stadi, perché la gente deve comunque tornare allo stadio, anche se contingentata, ma non si poteva fare diversamente. Cioè, anche i discorsi che fa Sarri sulla Lega a 5 giorni, se voleva riposare come il Lione poteva farlo serenamente. Certo. Sono 5 mesi che non gioca. Sì. Voglio dire, non so chi è... Certo. No, scusami, al volo, ieri parlavamo con Guidolin proprio di questo, cioè, alla fine è meglio arrivare un po' stanchi ma con ritmo partita e un mese e mezzo di agonismo delle gambe che arrivare come arriveranno Lione e Paris Saint Germain, che adesso vedremo in Coppa di Lega, ma insomma è chiaro che è un vantaggio per noi, sulla carta ragazzi è un vantaggio per noi arrivare a queste partite di Champions e di Europa League con il ritmo partita. Sì, infatti questo renderà più interessante ancora l'agosto delle coppe, inedito, mai visto, ma che aspetto con grande passione, Ivan. Sì, io ti dico, l'unico rimpianto che ho è quel mese e mezzo, due, nel quale si parla di sogni, nel quale c'è l'appiattimento da mercato, nel quale tutti pensano di vincere il campionato, nel quale tutti pensano di non retrocedere, o tanti pensano... Quello sì un po' mi manca, perché faceva parte per 40 anni delle mie abitudini o delle nostre abitudini, però sarà diverso, sarà un'estate completamente diversa, ma lo è per tutti, lo è al di fuori del calcio, la gente non va in vacanza, se va in vacanza gli va pochi giorni, va in Italia, quindi dobbiamo al momento, mi auguro che sia temporaneo, adattarci a una vita dimezzata. E quindi ci sta anche che il calcio faccia le coppe e che si riparta il 12 di settembre. Sei sicuro? No, perché questo volevo dirti, la prossima battaglia del Corriere dello Sport Stadio quale sarà? Ripresa il 12 settembre? Non credo proprio, perché sarebbe fuori logica. Non faremo battaglie per il 12 settembre o fine settembre. E per i playoff e playout? Ma io credo che non arriveremo nemmeno mai agli playoff e playout. Io credo che siano anche una sorta di provocazione o di merce di scambio. Sì. Fondamentalmente per capire quando si deve ripartire. È chiaro che sono società che non vorrebbero ripartire il 12 con Napoli, l'ha detto chiaramente, ma anche altre vorrebbero partire più tardi. È vero anche che le date sono molto compresse, che il 4 e l'8 c'è la nazionale, che poi la nazionale la troverai a ottobre, novembre, poi sono gli europei. L'UEFA non ci pensa minimamente a spostare gli europei di 2 mesi, Ma andiamo avanti così, poi andiamo avanti, attenzione, verso un mondiale che giocheremo fra novembre e dicembre, quindi è tutto sballato, quindi viviamo alla giornata e cercheremo di capire cosa, di vedere di nascosto l'effetto che fa. Sì, ma però i giocatori, lo diceva Guidolin e lo sottolineo anch'io, i giocatori stanno mostrando comunque che è possibile, cioè che questo rischio era un rischio calcolato. Vi ricordate anche noi, anche io, che sai, sono stato sempre abbastanza prudente, poi gente mi dà del democristiano, ma insomma, sono stato sempre a favore della ripartenza, ma con tutte le attenzioni e le precauzioni del caso, e devo dire che insomma, ad oggi, a una giornata dalla fine, fortunatamente si stanno realizzando le previsioni migliori. Sì, anche il catastrofismo anche, sugli infortunati, ci sono stati, ma mi sembra in un range normale. È una, in certi momenti sembra veramente una corsa quasi a eliminazione, quindi insomma ci vuole un pizzico di fortuna, però ecco, onore ai giocatori perché hanno messo sul piatto la loro professionalità, si sono allenati bene e lo spettacolo in campo secondo me è uno spettacolo buono. Io complessivamente sono contento di quello che succede in campo. Concordo. Mi mancano a matti il contorno, questo sicuro. Prendo Milan-Juve perché è stata una partita clamorosa come andamento, ma non soltanto quella, pensa Sassuolo-Juve, pensa a queste partite qui con 60.000 persone, con 40.000 persone, ce ne ricorderemo. Sì, andiamo verso una finale di Champions League senza pubblico, però non per questo non ho una gran voglia di vedere Atalanta, Paris Saint-Germain, insomma, non lo so. No, io voglio rifare Atalanta-Inter sabato sera, che è una partita fantastica, che vale il secondo posto, di capire come finisce fra Genoa e Lecce. La gente, e anche il discorso sugli ascolti televisivi, leggevo anche in Germania, il calo è fisiologico, perché come ho sempre detto, non ci sarà mai nessun dirigente televisivo, io non ne ho trovato nessuno, fra Sky, Mediaset, Stream, come stavo prima, Telepiù, che ti dirà che vuole lo stadio vuoto. Dal punto di vista televisivo lo stadio vuoto è meno bello, infinitamente meno bello dello stadio pieno. Ma non c'è nessun rapporto comunque tra ascolti televisivi. Però sempre c'è, perché poi quando il Napoli vince la Coppa Italia, fortunatamente senza conseguenze, ormai dopo 50 giorni lo possiamo dire, quando il Napoli vince la Coppa Italia, poi la gente va a fare i caroselli. Perché è felice, perché la partita l'ha vista. Ma non c'è dubbio sul fatto che sia stato comunque qualcosa di bello, di positivo. È stato quello che ci aspettavamo, né più né meno, e ti ripeto, mi aspetto molto dall'agosto delle coppe, anche perché è un inedito, così non l'abbiamo mai visto. Poi se vogliamo piangere, piangiamo, ma non sono d'accordo, io non lo faccio. Alla fine, Scudetto Ivan, Scudetto Juve, Coppa Italia a Napoli, Supercoppa alla Lazio, nord, centro, sud, con la Lazio che si piglia anche la scarpa d'oro di Immobile, l'abbiamo sentito prima, che carino. Odio quando devo segnare per forza, ma questa volta dovevo farlo per battere Lewandowski. Beh, insomma. No, vabbè, comunque è anche vero, Ciro, che è pagato per segnare per forza. Cioè, non è che non per ogni tanto così, quando se lo dimentica. Infatti lui non se lo dimentica quasi mai. Ieri devo dirti che l'ho visto molto condizionato da questa cosa, pensavo che ne facesse anche di più. Non anch'io. È che la difesa del Brescia fosse imperforabile. Vedremo con una difesa perforabile come quella del Napoli, nella sua Napoli, oltretutto, nel luogo che ha santificato Higuain con i famosi 36 gol. Bravo. Hai capito che cosa succederà? Però io se fossi Koulibaly gli lascerei fare un paio di gol. Con magari buona pace dei tifosi del Napoli che almeno... Ma i tifosi del Napoli pensano al Barcellona, ma ci stanno pensando da 5 mesi, non pensano ad altro. Sì, il Barcellona pensa a tenersi Messi, invece. Non parlo, per favore, mi alco, quinto emendamento. No, veramente? Non su Messi? Sì. Ma scusate, adesso dai. Io vedo un precedente sfortunato, nel senso che la prima volta non ero convinto che Ronaldo non sarebbe mai arrivato alla Juventus. In questo caso sono sicuro che non verrà Messi all'Inter, anche se Marotta ci prova in tante maniere. È anche vero che questa cosa fa comodo all'Inter, attenzione, perché Lautaro viene continuamente massacrato da quelli del Barcellona che lo vogliono, cioè i suoi procuratori cercano di sedurlo. Quindi sta cosa qua, che l'Inter possa essere un Inge interessato a Messi, allora non dispiace all'Inter, ma è una cosa che gli fa proprio dispiacere totale, un po' di fastidio politico. Sì, un po' di fastidio politico e poi soprattutto fastidio politico di Bartomeu, cui Messi sta facendo una guerra dichiarata, credo che questo faccia parte della strategia, ma questo questa è una mia sensazione. Vuoi essere tu il presidente che ha distrutto il Barcellona e che ha lasciato andare via Lionel Messi? Chiede nella vignetta Messi a Bartomeu, mi immagino, Pierluigi. È esattamente così, è una suggestione che secondo me, sono d'accordo, conviene all'Inter, conviene anche a Messi, mette in difficoltà Bartomeu ulteriormente, la difficoltà di Bartomeu è già parecchia, e quindi secondo me ci sono tanti aspetti che vanno in questa direzione, che però, voglio dire, è un ulteriore indizio del fatto che poi magari di ciccia in realtà ce n'è veramente poca. Io poi mi sono trovato l'altro giorno, l'algoritmo mi parla quando apro Google di cose che mi interessano, quindi canzoni indie e cose varie, e c'era una roba tipo Pardo due punti, accende l'entusiasmo dell'Inter. Io non penso che questa cosa si concretizzerà, io ho semplicemente detto, e lo ribadisco, che già il fatto che ci sia questa suggestione di Messi che può andare all'Inter, del campionato italiano che potrebbe permettersi un altro campione fenomenale, anche se ovviamente con qualche anno in più rispetto forse al picco della sua carriera, già questa è una bellissima notizia per l'Inter, che secondo me sta diventando una cosa grande e potrebbe essere la prossima cosa grande vera del calcio italiano, e per tutto il mondo del calcio italiano. Quindi questo è quello che penso io. Poi che l'affare si concretizzi, c'è un 10% di possibilità. Come diceva Mazzone, magara veramente. Cioè, pensa a Inter, Juve con Messi e Ronaldo in campo insieme, sarebbe meraviglioso. Ma poi soprattutto si muove l'attacco alla Juventus, l'assalto alla Juventus dopo i 9 titoli. Credo che il decimo sia ben chiaro nei desideri, in cima alla lista dei desideri di quel gruppo di lavoro capitanato da Andrea Agnelli. Io credo che abbiano altri desideri, ne hanno un altro di desiderio, molto con delle orecchie, due belle orecchione larghe. L'hanno da quando l'avvocato Agnelli lo chiedeva a Platini nel 1981. Farebbero volentieri la decima con la Coppa dei Campioni, ma firmerebbero domani mattina, questo è un dato, firmerebbe soprattutto Andrea Agnelli. Ma parliamo un po' della Juve di ieri, ragazzi, parliamo un po' della Juve di ieri. Ma il povero Cagliari, una volta che vince una partita con la Juve, lo massacriamo così, cioè loro erano poco interessati, loro, povero Zenga. Ma ha un senso discutere Zenga? A parte che oggi è stato confermato Iachini alla Fiorentina, e questo mi sorprende abbastanza, devo dirvi. Mi stupisce. Sì, un po' anche me, perché se sono fatti mille altri discorsi. Io ma credo un po' come che... Pioli, stanno accadendo cose strane, la conferma di Pioli, Rangri che resta a casa, e lì è successo di tutto, è successo di tutto. Ieri ho visto un SMS che è veramente incredibile su Rangnick, poi soprattutto Pioli, si è parlato di Juric era super cercato dalla Fiorentina e alla fine è rimasta 1,5 milioni a Verona, quindi voglio dire, probabilmente la stabilità, la continuità, il calendario compresto credo che non vogliono in qualche modo rischiare la grande novità, hai capito? Non vogliono rischiare, perché anche Marcelino, che era una delle suggestioni per Firenze, arriva qua, perde 4 partite e ha rovinato la stagione. Sì, non c'è il tempo per programmare quest'estate, proprio perché non si sa quando comincia la prossima stagione, potrebbe cominciare molto presto dopo la fine di questa, quindi secondo me la stabilità quest'anno è il punto di partenza, poi magari dopo 3 mesi fioccheranno gli esoveri, questo non lo so, però la mia sensazione è che si parta così perché appunto non c'è il tempo tecnico materiale per poter fare un po' di programmazione. Sul Cagliari di ieri tutti i migliori complimenti al mondo, Zenga si può discutere, sì, si può discutere, anche se è un amico ed è un allenatore sicuramente di grande impatto e di grande forza, ma si può discutere perché è evidente che nel calcio tutto si può discutere. Lui ha avuto pochissimo tempo, ho parlato ieri un po' dopo la partita, ha avuto ovviamente pochissimo tempo per allenare la squadra, c'è pochissimo tempo fra una partita e l'altra, su alcune cose secondo me la sua mano si vede, per esempio sui giovani, lui è uno che sicuramente ti dà ma carica, non ci sono le condizioni per discutere, io credo, adesso ne parliamo con calma, lasciami salutare Ivan Zazzaroni, non credo ci siano le condizioni per discutere Zenga, non so se ci saranno le condizioni dopo la Champions discutere Sarri nonostante le ripetute conferme. Un momento, appunto, perché se dovesse, noi gli auguriamo di arrivare fino in fondo perché ci fa vendere tanti giornali, ma quindi non ho interesse privato, ma se dovesse saltare con Lione saltare proprio la panchina, questo è indubbio. Non a caso molte operazioni della Juventus di mercato sono bloccate alla fine del mese, L'ha preso quindi, come te. L'ha preso come te. Sì, io penso, ma è normale, questo è normale. Io non discuto Sarri perché a Napoli ci ha esaltato. No, nemmeno io, però non firmerei per la certezza di una sua conferma nel caso che uscisse con Lione. Semplicemente neanche questo. Neanche io, perché l'impatto sarebbe devastante. Grazie. Ma gli auguriamo di passare. Grazie, direttore, auguri ancora. Grazie a voi, grazie. Ciao. Allora, vi voglio far sentire un'altra cosa che è successa ieri sera, così poi ne parliamo con uno che c'era andato al cinema. Un uomo oltre gli 80 con un piede già nella fossa. Morirà. Di vecchiaia. Hanno detto che era impossibile tornare, poi ho tornato in campo e fino a che posso giocare, gioco. Mi chiamo Benjamin. Benjamin Button. Quanti anni hai? 38 anni, ho avuto più richieste di quando ero 28 anni. Dicevano che sarei morto presto, ma forse no. Ibra, rete! Ibra, 3-0! Ho forza di fare gol perché fine partita mi stanco, no? Perché dicono che sono vecchio. Invece sto riscaldando. Come Benjamin Button. Nato vecchio, però sono stato sempre giovane, mai vecchio. Nando Orsi, ciao! Buon pomeriggio a voi. Ti sei divertito al cinema? Sì, mi sono divertito perché Ibrahimovic mi fa divertire. È uno di quei personaggi che ti incute un po' di timore. Secondo me Pioli aveva paura a tirarlo fuori, gli ha chiesto 2 o 3 volte di uscire. Lui, una volta gli ha risposto, un'altra volta l'ha guardato. E poi dopo, secondo me, ha deciso di uscire, perché insomma, anche l'allenatore deve dare la sua impronta, nel senso che deve prendere la sua decisione anche per preservare un po' il ragazzo, sì, certo, ma è normale. Ma d'altra parte, in un mondo normale, ripeto, Cristiano Ronaldo ieri sera, Pierluigi a Cagliari, non l'avresti commentato. Poi è chiaro, c'è il discorso della scarpa d'oro, eccetera, però ci sono dei giocatori che in fondo decidono loro quando è il momento, no Pier? Decidono loro quando è il momento. Vabbè, su Ibra, insomma, sai come la penso, l'ho sempre pensata così da prima che arrivasse. Per me, nel Milan, un po' impaurito della prima parte della stagione, stava proprio bene come il pane, e sta facendo cose, soprattutto adesso, clamorose. Sì. Adesso, nelle ultime partite, secondo me, sta entrando sempre di più nel personaggio. Sta meglio, evidentemente sente di stare meglio, e quindi è un crescendo in campo ed è un crescendo di dichiarazioni. Poi credo che anche la scelta di Pioli, di mantenere Pioli, abbia dato ulteriore serenità all'ambiente. Quindi mi sembra che ci siano tanti segnali incoraggianti. È ovvio che, onestamente, programmare, con tutto rispetto per Ibra, per il quale ho avuto profonda stima, e per lo strano caso di Benjamin Button, programmare il futuro di una società così importante su un 38enne non è proprio semplicissimo, buona operazione. Ma dipende dipende sempre dal quadro. Sì, ma che Ibra sia un fenomeno vero, uno che secondo me avrebbe meritato anche qualche soddisfazione in più. Per me Ibra ha avuto la sfiga che è capitato nell'epoca di Cristiano Ronaldo e Messi, e ha avuto, diciamo, la sfiga poi dal punto di vista del destino, che è andato nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Ma dal punto di vista della continuità di rendimento, secondo me in un'altra epoca, senza Cristiano Ronaldo e Messi, avrebbe vinto 4-5 palloni d'oro. No, ma 50 gol, unico giocatore della Serie A girone unico aver fatto 50 gol con il Milan e con l'Inter. Ma è un altro il dato che mi sorprende tantissimo, perché noi abbiamo fino all'inizio di quest'anno, insomma, continuavamo a dire, Nando, che il Milan era una squadra che non ti faceva paura in zona gol, che magari stava in campo con orgoglio. Ricordo le partite contro la Juventus. Sì, combatti con orgoglio in Coppa Italia, eccetera, però non riesci mai a far paura agli avversari. Ebbene, dopo il lockdown, in Europa solo il City ha segnato più del Milan. 34 gol contro 32. Ma è chiaro che la differenza è quella. Hai ragione, ma lo sai che quando Ibra giocava con il Milan fece 10 gol o 11 gol anche Nocerino? Quindi vuol dire che lui, certo, che lui è un giocatore che dà autostima anche agli altri. Però quello che voglio dire è che il Milan, al di là di Ibra, ma non è soltanto Ibra, perché c'è Çalhanoğlu che sta giocando benissimo, Rebic che è diventato un altro giocatore, e da quell'altra parte Selemeques e Castiglieco, tutti e due si alternano, stanno facendo bene, sembra che siano bene anche fisicamente, e in più hanno ricominciato a trovare quelle qualità che, insomma, se Çalhanoğlu è un giocatore che gioca come sappiamo, Çalhanoğlu è forte, è veramente forte, e quindi il Milan, Bennacer e Kessié, cioè bisogna anche dare meriti a Pioli, al di là di quello che sta facendo Ibrahimovic, perché lui ha dato, cioè ieri ha giocato benissimo Gabbia, ha giocato benissimo Kier, cioè Hernandez ormai è fuori discussione. Quindi un Milan che secondo me... Poi mi sei una squadra che funziona, funzionano un po' tutti, esatto, no? Esatto, esatto. Donnarumma ha fatto le sue solite due parate decisive. Saltano il Milan ha due o tre giocatori importanti. Secondo me se la può giocare. Il paradosso è che alla fine chiude quasi da deluso, no? Nel senso che aveva coltivato il desiderio concreto di poter superare la Roma e di poter prendere quindi l'Europa League senza preliminare. E quindi alla fine è quasi una mezza delusione, però non dobbiamo dimenticarci che prima del lockdown il Milan era tutt'altro che certo del posto in Europa League. Quindi insomma io credo che sia un inizio, una rinascita, e l'Europa League dell'anno prossimo può rappresentare il punto di partenza. Però una competizione che secondo me è stata sempre un po' bistrattata da noi italiani. Mai giocato una finale di Europa League. Ecco, e noi invece dobbiamo rispettarla, e l'anno prossimo ci sono tre squadre che hanno una tradizione importante, che potrebbero trovare in Europa League, Roma, Milano e Napoli, delle soddisfazioni. Quindi è chiaro che insomma il Napoli e la Roma hanno ancora la speranza di prendersi la Champions. È no. Chiaro, però voglio dire, siccome è abbastanza difficile, diciamo intanto partiamo da qui. No, ma intanto già la Roma e l'Inter, poi questa Europa, già quella di quest'anno, magari qualcosa combinano. Vorrei tornare un attimo a Cagliari per farvi sentire una voce di Sarri e farvela commentare. Problemi ce l'ha creata anche la Lega, siamo l'unica squadra d'Europa e fa 6 partite, 5 partite in 12 giorni, e anche in 14, in 12. 20, 23, 26, 29 primo. Quindi vediamo come stiamo domani e se è il caso di schierare l'Under 23 nell'ultima partita per recuperare completamente energie. Vediamo, vedremo domani l'altro la situazione. Cioè, un Sarri in versione Conte, contizzato, che si lamenta dei calendari, che effetto vi fa? Nando, parto da te. Io penso che non sia giusto, cioè nel senso che io penso che sia una provocazione. Io penso che Roma Juventus... Ma che c'è da provocare? Nel senso che ha detto che farà giocare l'Under 23, io penso faccia giocare una squadra degna, ma sicuramente qualcosa cambierà, ma insomma che da qui a far giocare l'Under 23 non mi sembra da Juventus, Sì, anche queste dichiarazioni non mi sembrano a da, me, da, ecco, da io a me sembra sinceramente un errore di comunicazione, lo dico con stima per Sarri, per la qualità del gioco numero 426 426? Il numero, errore di comunicazione, numero 426. Ah, ma no, adesso questo non lo so. Però dico, quando tu hai vinto il campionato meritatamente, legittimamente, qualche giorno prima, insomma, perché lanciarsi in una polemica in questo momento non ha veramente nessun significato? E poi, voglio dire, se questa è l'idea, allora perché aver schierato una formazione quasi titolare ieri al netto delle tante assenze per infortunio e per squalifica? Cioè, ci sono delle cose, francamente, che non capisco. Ma ripeto, il tema... per me è più la comunicazione che altro, nel senso che insomma Sarri si era giustamente goduto la notte di festeggiamenti strameritati per lo scudetto e per il lavoro che ha fatto, perché comunque vincere non è mai facile, e quindi questo gli deve essere riconosciuto. Non mi sarei lanciato in questa polemica tre giorni dopo, perché proprio dal punto di vista della comunicazione non mi sembra un'idea geniale. No, ma è del tutto legittimo pensare a Lione, proiettarsi sulle coppe, quindi far giocare quelli che possono essere funzionali per la preparazione di quella partita lì, poi che siano gli Under 23 o gli Under 14 o i Pulcini, non lo so, però che se usi questa la partita di ieri, vabbè, è andata, quella di domenica con la Roma, che non ha nessun significato per la classifica, però può avere significati emotivi importanti, perché se ne perdi due di fila e vai verso il Lione non è una bellissima cosa, no? No, ma lui domenica può fare, ed è giusto, sabato può fare quello che ritiene più opportuno, ed è giusto che lo faccia. Quindi per me Nando ha risposto dal punto di vista tecnico, ovviamente, essendo un tecnico. Io ho risposto sulla comunicazione occupandomi di comunicazione. Lui può fare quello che vuole. Ieri tra l'altro abbiamo visto un paio di ragazzi molto interessanti, oltre ovviamente a Gagliano e Cagliari, quindi complimenti. Ieri preparavo la partita, ho parlato un po' anche con Paratici, mi sono fatto raccontare un po' di cose di questi ragazzi, ieri si sono viste delle cose interessanti, no? Oltre a Gagliano, che ha fatto ovviamente una gran partita dall'altra parte, quindi può fare quello che vuole, secondo me, può pure giocare con 6-7 giocatori dell'Under 23, se quella è la strada migliore per arrivare a Lione, va benissimo. Certo. La polemica, ma ripeto, può anche avere ragione sulle partite ogni tre giorni, non sto qui a fare il discorso dei calendari, però non metti una polemica in un momento in cui comunque sei campione d'Italia devi portare energia positiva e, insomma, anche perché non hai niente da guadagnare dal punto di vista della comunicazione, Pierluigi. Secondo me non ti dà una mano e invece l'immagine che io oggi vorrei che Sarri facesse passare, perché se lo merita, perché è un allenatore che ha vinto lo scudetto, è un allenatore che anni fa lavorava in banca, con tutto il rispetto per la banca, e che oggi è l'allenatore della Juve, ha vinto lo scudetto, ha comunque portato qualità nel gioco del Napoli, ha vinto l'Europa League col Chelsea, è un figo, scusa se te la riassumo. Ecco, questa immagine fossi la sua comunicazione vorrei far passare. Lui vive invece in quella maniera lì, probabilmente non sarebbe Sarri. Fammi chiedere un'ultima cosa a Nando Orsi, che poi lascio andare a prendere il treno. No, già l'ho preso. L'hai già preso? No, perché tutte le volte che... Hai ragione, con Claudia abbiamo questa cosa qua, Claudia. Che ti porta il treno, e purtroppo che devo fare? Allora, per farti sentire meno solo, senti qui. Così ti senti più a casa, no? Vi voglio bene. Anche noi tantissimo. Senti, dimmi un'ultima cosa. Genoa-Lecce, sì. Come finisce questo film? Il Lecce, cioè se fossi Liverani darei delle craniate addosso a un muro. per quello che ha dilapidato. Ma tu pensa se non lascia la partita a Bologna. Sì. All'ultimo secondo che hanno detto di segnate, va bene. E quindi adesso è difficile. Ora Juri c'è l'allenatore del coso del Verona. Veloso mi sembra che sia, cioè abbia qualche parentela, non mi ricordo con chi. Dici. Genova-Verona mi sembra ragazzi, però una squadra che va a Sassuolo e ne prende 5, scusate, ma io tanto tranquillo non starei. Questo Genoa deve essere veramente fortunato che trova un Verona sbracato, perché sennò diventa duro e difficile. Grazie, Nando. Posso dire, ciao Nando, posso dire che secondo me in realtà stiamo vedendo tante cose positive anche da questo punto di vista, e lontane del vecchio stereotipo. Ma certo, di quelle partite che zottate a fine stagione. Bologna-Lecce, il Bologna non aveva niente da, è partito 2-0. Da chiedere, alla fine è partito 2-0, poteva anche vincere il Lecce, ma alla fine ha vinto il Bologna. Sassuolo-Genoa, tutto sommato ha poco da chiedere, e ieri ha triturato il Genoa, soltanto per fare due esempi. Quindi veramente io penso che insomma ci sia professionalità da parte di tutti. È un bel segnale questo, Pier. Bel segnale, questo, diciamo, bel segnale, ma questo è quello che dovrebbe succedere sempre. Poi è ovvio che allora c'è una cosa, un conto è chiaramente il dolo, quindi l'idea che siccome a te la partita serve, a me no, io te la debba lasciare. Questo è un malcostume che secondo me è inaccettabile, che io non sto vedendo più, fortunatamente. No, ma poi spesso anche, guarda, facciamo così, è un discorso interessante che facciamo subito dopo la borsa, siamo in terribile ritardo, 14.33, riprendiamo anche con gli ascoltatori, 800240024, numero verde. Mamma mia come rosicano bestia tutti. L'anno prossimo sono 10, 10, 10 e 10. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Tutti convocati. Si parla con gli ascoltatori, poi è chiaro che i sospetti sono sempre diffusi. Volevo chiudere il discorso con Pierluigi Pardo, c'è chi scrive di Veloso, che si potrebbe pensare male su Veloso del Verona, genero di Preziosi. Io non ho voglia di pensare male su Veloso, genero di Preziosi, ma nemmeno su Juric ex Genoa. Io credo che il Genoa avrà tutti gli stimoli e motivazioni del mondo, il Verona ne avrà di meno. A occhio e croce il Genoa è favorito in questa partita, però dopo che ha preso 5 sberloni col Sassuolo ieri non ho tutte queste certezze. Poi perfetto, sottoscrivo al 100%, proprio non ho altro da aggiungere. Pure ieri, cioè è normale, vai a Sassuolo, vinci la partita, sono cose che abbiamo visto un sacco di volte in passato, e questo autorizza qualcuno anche a scrivere di Veloso, genero di Preziosi, queste cose qui. Io penso che il quadro sia la cosa di Veloso, la cosa di Veloso è chiaro che è una cosa oggettiva. Vabbè, e quindi è sì. Chiaro che insomma però ripeto, secondo me stiamo vedendo tanti esempi rispetto a 10-15 anni fa molto più incoraggianti. Assolutamente, Pierluigi, ma non ho la memoria abbastanza lunga su svariati episodi in passato che erano certamente criticabili, censurabili. Quest'anno io sinceramente, ma nelle ultime stagioni ti devo dire, non ho assolutamente avuto questa sensazione. Poi c'è anche chi scrive anche messaggi vocali pro Juve, sempre solo Juve, ma no, allora questo lo contesto totalmente. Messaggi vocali 349-238-6666 sono le parti tra più importanti e una delle parti più divertenti di questa trasmissione. Pro Juve, contro la Juve, a favore dell'Inter, contro l'Inter, contro chi volete, a favore di chi volete, me ne frega zero, li mando tutti quelli che posso. Saro, buongiorno. Buongiorno. E senti, io volevo tornare un attimo sulla questione delle tue 426 errori di comunicazione di Sarri. A me sembrano tutti un po' esagerati. Cioè, io soltanto due cose voglio dire. Sarri ha accettato una scommessa che chiunque altro avrebbe fatto fatica a accettare, perché se sbagli dopo 8 anni che hai vinto, sei fallito e vai a allenare in Serie C. Numero due, lo dico anche agli juventini come me, ogni sera ci troviamo magari nel club a parlare durante le partite. Guardate che Sarri quest'anno fa lockdown e malattia sua, la Juventus l'ha avuta 3 mesi. Allora, tutti quelli che si illudevano di vedere il nuovo Napoli, vorrei anche dire che quando Sarri prese il Napoli, a parte Higuain, allenava gente a 300.000 euro l'anno, gli Insigne, i Calleone. Ma noi mica, ma guarda, che non stiamo criticando Sarri, ribadisco che Sarri è un figo, anzi, adesso lo farò diventare un hashtag. Cioè, una persona che, ripeto, con tutto rispetto per chi lavora in banca, fa un lavoro normale, poi comincia a inseguire la sua passione, poi diventa prima allenatore di provincia e grazie alla qualità del suo lavoro emerge, poi fa quello che ha fatto a Empoli, poi fa quello che ha fatto a Napoli, poi va al Chelsea e vince l'Europa League, poi va alla Juve e vince lo scudetto. Insomma, la storia, certo, di questa persona qui raccontata da fuori è quella di un figo. Per questo, secondo me, dal punto di vista della comunicazione, visto che sei comunque un figo e appena vinto il campionato, la polemica sulla partita ogni 3 giorni, che magari ci sta anche, magari in cuor tuo lo pensi pure, se io fossi quello che gli cura la comunicazione, cercherei di non farglielo dire. Io lo consiglierei a non dirlo, ma ognuno poi è quello che è. Ma no, ma poi, tutto sommato, il bello di Sarri, lo dico veramente con stima, è la spontaneità. Chiaro. Quindi poi io, così come ti dico che non mi piace quell'uscita, però riconosco che viva la sincerità. Però fossi suo fratello, gli direi, ma guarda, forse è un momento in cui bisogna lanciare messaggi positivi. Ma anche perché poi dipende da dove la fai la polemica. Io chiedo a Saro, quanti allenatori della Juventus si ricorda che abbiano fatto polemiche anche sterili come questa, o che abbiano risposto alla considerazione sui numeri che ho subiti, abbiamo preso 12 rigori contro, non capita mai a tutte le grandi squadre. Secondo me questi sono errori di comunicazione, non sto discutendo Saro allenatore. A parte che io credo che lui non abbia fatto polemiche, ma considerazioni. Poi voglio dire, la famiglia Agnelli, quando lo ha assunto, sapeva benissimo che questo non avrebbe detto faccio un gesto scaramantico, ma avrebbe detto mi tocco le palle, come ha già detto. Cioè, tutto sta tutto lì nel gioco. Però insomma, per quanto riguarda la comunicazione sua, adesso non è che perché mette la giacca e cravatta può cambiare modo d'essere. Questo è, e questo ci teniamo. Poi la Juve farebbe bene anche ad aggiornarsi ogni tanto, un po' di diplomazia in meno, qualche cosa un po' di più spontanea, ecco. Insomma, io come juventino, e chiudo, vi lascio lavorare, non sarei insoddisfatto, anche perché qualcosina in centro potremmo anche fare. Ma quello che voglio dire, io stamattina ho dato la mia classica occhiata che do un paio di volte al giorno a Twitter per vedere cosa succede nel mondo, e oggi ho trovato, con tutto che Twitter non è il mondo ovviamente, no? Però insomma, in qualche modo racconta qualche tendenza, e ho ritrovato Sarri out. Ed è paradossale, perché stiamo parlando dell'allenatore che ha vinto il campionato. Quindi, cioè, capisci che anche la comunicazione è importante da questo punto di vista. Certo. E il fatto che, cioè, alla fine, più in discussione è lui, che è quello che ha vinto. Sì, sì. Cioè, più in discussione lui di Conte, faccio per dirti. Beh, no? Ma anche Allegri, non è che non ci fosse, esatto, Allegri out un anno fa. Un po' perché la Juve degli ultimi anni è stata talmente grande, talmente forte, che certo, è abituata a vincere il campionato, a vincerlo non di corto muso, come direbbe qualcuno che conosciamo, ma di vincerlo alla grande, quasi sempre. Quindi questo è il punto di partenza. Però ecco, insomma, io credo che una la costruzione di un'immagine un pochino più positiva, un po' più rilassata, a tre giorni dalla vittoria in campionato, sarebbe, secondo me, gli avrebbe aiutato. Gli farebbe però gioco. Non cambia niente. No. Conta solo una cosa, il 7 agosto, Juve-Lione. Poi il resto le chiacchiere stanno a zero. Federico? Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Io volevo fare una considerazione sul mercato estivo, perché io leggo, sento anche da voi, che c'è quest'idea che come ogni anno sì, ci saranno i grandi colpi, ci saranno messi all'Inter esagerazione, però queste robe qua, Agnelli che vuole il decimo scudetto eccetera, io invece la vedo più come un mercato di riparazione allungato, diciamo, una maxi stagione 2019-2021 in cui si muoveranno solo o giovani o giocatori scontenti, e in quest'ottica qua io vedo molto male Juve-Inter, perché secondo me più di quello che è andato questa stagione senza cambiare giocatori sarà difficile, mentre squadre come Milan e Napoli, che hanno innanzitutto uno spogliatoio molto più unito, secondo me veramente potrebbero impensierirli per la lotta a scudetto. Grazie. Grazie a lei, che ne pensi Pier? Ma non lo so, sinceramente non lo so, perché ho troppe variabili, che ci possa essere una sorta di conservazione, questo sì, proprio per quello che dicevamo prima a proposito degli allenatori, è molto difficile cambiare perché c'è poco tempo per cambiare, però che Milan e Napoli abbiano un vantaggio rispetto a Juve e Inter non lo so, si potrebbe pensare anche invece il contrario, e cioè che comunque chi è arrivato più in alto in classifica in questi anni, in questa stagione comunque abbia un vantaggio, e che il poco, partendo dal presupposto che ci possa essere poco mercato, c'è poca possibilità per cambiare tutto questo. Secondo me serviranno le idee, ecco, forse in questo, forse ci sarà anche nel mercato, cambieranno delle maggiore regole. Creatività. Innanzitutto la cronaca dice però che intanto la Juventus ha preso Kulusevski e Arthur, certo. L'Inter ha preso Hakimi, quindi al momento quelle che hanno piazzato sono mosse, sicuramente, insomma, qualche colpo l'ha messo. Poi che Milan e Napoli post cambio allenatore, post lockdown, siano due squadre competitive, che quindi il loro ritardo in classifica sia del tutto attribuibile alla prima parte della stagione, questo è evidente. Se guardiamo la classifica post lockdown, credo che il Milan sia con l'Atalanta in testa in questo momento, il Napoli sicuramente dopo il cambio in panchina nel 2020 sta andando a buon ritmo e ha vinto la Coppa Italia, quindi insomma, però dico, secondo me non è così, non matematico, certezze non ne abbiamo, no, non è potrebbe così, esserci, non è così, potrebbe esserci, non dico le sette sorelle, ma insomma, in questo momento quello che vediamo è che ci sono 5-6 squadre su un livello importante. Sì, sta crescendo quelle le inseguitrici. Grazie Pier, ti abbraccio. Ciao. Allora, traffico e poi Stati Uniti. Guardo, se c'era la curva dopo aver perso la Coppa e preso 4 gol dal Milan, quello Sarri non entrava più in campo. Ciao, auguri. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, vi ricordo che Tutti convocati quest'estate dura fino alle 15.30, quindi dalle 15 alle 15.30 avremo modo di tornare sull'argomento mercato Messi. Sentiremo Belinazzo per capire se è un'operazione totalmente campatinaria, pura fantasia, o ci sono possono esserci presupposti economici. Potete intervenire naturalmente 800 24 00 24. Detto tutto questo, non è per fare i fighi a tutti i costi, però non so quanti possono raccontarvi cronache da uno dei posti più incredibili del mondo, non solo dello sport in questo momento, e cioè la bolla di Orlando, dove nella notte italiana ricomincia l'NBA. Ciao Simone Sandri. Buon pomeriggio Carlo. E io ti ringrazio in modo particolare per questo privilegio che diamo ai nostri ascoltatori. Cronache dalla bolla, dunque, che sei entrato, cosa succede lì dentro, cosa hai trovato? Sì, sono entrato, grazie al cielo il test era negativo, per cui mi hanno fatto entrare, siamo testati un giorno sì, un giorno no, i giocatori sono, che sia ben chiaro, sono ben definiti in una bolla loro, per cui sono assolutamente inavvicinabili, anche alle partite staremo molto lontani da loro, per cui l'NBA è stata chiarissima, c'è un protocollo complicatissimo, un manuale di più di 100 pagine che racconta le cose che si possono e non si possono fare, soprattutto le cose le cose che non si possono fare sono tantissime, le cose che si possono fare sono abbastanza poche, per cui il manuale delle cose che si possono fare è abbastanza piccolo. Interviste come siete messi? solo esclusivamente su Zoom, esclusivamente sì. via Zoom, per cui è una dei punti, l'unico che può intervistare in persona, di persona, sono il network ESPN e TNT, che hanno una crew che può intervistare i giocatori, ma assolutamente non voglio nessuno. Questo va al di là dell'aspetto medico, credo che sia stato un accordo con con l'associazione dei giocatori. I giocatori non vogliono avere, diciamo, i rompiscatole giornalisti li vogliono il più lontano possibile, considerato il fatto che alcuni di loro rimarranno in questa bolla per circa tre mesi, e ne abbiamo parlato l'altra volta. È un contesto veramente strano per loro, perché parlando con tutti i giocatori europei in questi giorni non vedo una grande differenza tra un torneo FIBA, per esempio, e questa bolla. Ai raduni, esatto, sono abituati anche molto lunghi, esatto, mentre e invece per i giocatori americani è una cosa completamente diversa, e per loro abituarsi adesso sta un po' svanendo l'idea della novità delle prime tre settimane, che comunque c'era una novità. Adesso incomincia veramente la noia, comincia l'essere ripetitivo. Sì. È vero che incomincia la competizione, per i cui pesci, sono curioso di pescati capire... tutti, i tornei, esatto, di pochi hai già fatti, e poi, esatto, di replicare. La sensazione che arriva qui è che debba davvero funzionare tutto, che si stia un po' camminando sulle uova, ma d'altra parte lo stesso commissioner Adam Silver ha detto stiamo attenti, partiamo con protocolli, misure, eccetera eccetera, però insomma la mano sul fuoco non ce la metto. Quindi la sensazione è comunque che arriva comunque di una certa precarietà, Simone. No, sono d'accordo, da un certo punto di vista è strutturato in maniera quasi perfetta, perché c'è qualcuno che si sorprende per il fatto che anche l'ultimo giro di test non ci sia stato un positivo, ma non è una sorpresa, perché i protocolli sono tali per il quale è abbastanza normale che non ci siano casi. Il problema sarà se si riuscirà veramente a tenere tutti i giocatori disciplinati, a tenerli dentro, a non farli uscire anche di poco. Il problema è che, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, non ci sono delle guardie armate ai confini della bubble, ci sono delle security guard, e se qualcuno vuole uscire in teoria può farlo, poi deve pagare le conseguenze con una quarantena lunga quando rientrerà. Però il nightmare scenario, diciamo, di Silver è che qualcuno possa uscire, che qualcuno possa far entrare qualcuno magari per una sera nella bubble. Potrebbe essere questo la paura, soprattutto dopo qualche settimana, quando, come ne abbiamo detto, incomincia la noia, incomincia a farla da padrone. Ma devo dire che i protocolli sono molto, sono assolutamente, sono quasi perfetti da un certo punto di vista. C'è un piccolo un problema che non c'entra niente con i protocolli, potrebbe essere, c'è un ciclone che è previsto per sabato, la coda di questo ciclone che si sta formando ai Caraibi, che potrebbe essere un problema, perché ci sono tantissime strutture appena costruite, e poca manodopera, perché la manodopera deve essere tutta nella bubble e deve essere testata. Per le cavallette aspettiamo ancora un po'. Esatto, se ci fossero dei danni potrebbe rallentare l'operazione, potrebbe essere un problema. Sì, senti, invece leggevo del tifo virtuale, che succede dentro ai palazzetti? Maxi schermi con tifosi che possono interagire tra di loro e fare il tifo, ma proiezioni, ologrammi? Esatto, ci saranno queste sorte di ologrammi, saranno ovviamente i monitor con dei tifosi, dei fortunati tifosi che potranno assistere alle partite. Sono curioso, dal mio punto di vista la cosa della quale sono più curioso di vedere è l'audio, se ci sarà, perché si discute sul fatto che tipo di audio si potrà offrire ai telespettatori, un audio puro e completo, oppure ci sarà una sorta di censura. Credo che alla fine si deciderà per la censura con qualche secondo di ritardo, perché neanche i giocatori non vogliono che si sentano tutte le cose che dicono, ovviamente, perché sono molto molto facili da cogliere, ovviamente, in un contesto del genere, per cui da un punto di vista visivo sarà molto affascinante. E anche secondo me dal punto di vista dell'audio bisogna stare attenti, perché ci saranno delle cose abbastanza interessanti da sentire. Sì, certo che è come essere davvero all'Euro Disney dello sport, alla Disney World dello sport. Esci da una partita a strettissimo giro di posto, non devi prendere l'aereo e farti 10 ore d'aereo per attraversare il paese, li hai tutti lì. Quindi anche questo credo debba essere curioso e strano, no? Un po' come alle Olimpiadi, esci da una gara, entri in un'altra, e lì sembra davvero un parco giochi per chi è amante dello sport. Senti, invece, un'ultima cosa che riguarda il contesto americano, perché anche la MLB nel baseball, due partite cancellate per Covid, anche lì ci sono preoccupazioni, e non posso non pensare all'inizio del football americano. Sì, sono d'accordo. Ed, il problema nasce da questo spread che c'è stato nel, in una squadra nei Marlins, con 11 giocatori che hanno testato positivo. Il problema è che ovviamente l'idea della bubble che ha adottato anche la NHL, che sta iniziando, sì, la sua stagione nella bubble canadese, previene ovviamente queste cose. Il resto, uno sport come il football, eventualmente tra qualche settimana, e il baseball, si basa sulle libertà personali dei giocatori, per anche qui una negoziazione molto complessa tra l'associazione giocatori e la MLB. L'associazione giocatori del baseball è molto potente e si è deciso c'è stata l'idea della bubble, ma si è deciso di non accettare un'idea della bubble per una stagione che sarebbe stata comunque lunga. Certo. E per cui purtroppo questi sono i rischi, si vive nella vita reale, la responsabilità individuale dei giocatori deve essere quella di fare le cose nel modo più responsabile possibile, e bisogna vivere con le conseguenze. Grande senso di responsabilità. Grazie Simone, a prestissimo. Grazie a te. Naturalmente. A prestissimo. Ciao. Con Simone Sandri da Orlando, dove nella notte italiana comincia l'NBA, e seguiremo tutto quanto grazie a lui. Ora ci fermiamo un istante, poi, come vi ho detto prima, continuiamo altra mezz'ora fino alle 15.30 ogni giorno di questa estate, di tutti i convocati. Marco Berinazzo, collegamenti con Stefano Borghi sulla Spagna, con Boldrini dall'Inghilterra, mercato, le vostre curiosità, tutto questo, 800 24 00 24 per intervenire. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24 Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Cronaca, una buona dose di attualità, un pizzico di arte, cultura e spettacolo, sport quanto basta. Ad innaffiare il tutto tanta curiosità per quello che succede in Italia e nel mondo in questa estate molto particolare. Sono Andrea Ferro, questa è la mia ricetta. Con effetto notte estate vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 20.30, qui su Radio 24. Quando sento parlare di Messi all'Inter, che saranno tipo 3-4 stagioni, ma anche di più da Moratti, mi sembra quella frase tipica quando ti dici da lunedì vado in palestra e faccio dieta, che poi alla fine non fai mai, ma è sempre un buon proposito per l'anno nuovo. E niente, questo è. Buongiorno ragazzi, ma io vorrei fare veramente una ola grandissima al signor Zhang, che ha proiettato l'immagine di Messi sul Duomo. Come hanno fatto loro da un anno che stanno rompendo le palle all'Inter con Lautaro, e che le hanno messo in difficoltà sia la squadra che il giocatore con questa proposta di comprarlo, che lo vogliono comprare, tutto quello che hanno fatto, campagna mediatica che hanno fatto in Spagna. È giusto che adesso Zhang rompa le palle allo stesso modo, che vogliono prendere Messi. Alla fine ovviamente non verrà, però è giusto che gli rompano le palle almeno un pochettino al Barcellona con questa storia, cioè li ripagano con la stessa moneta. Ma scusate, se in Cina pagano 25 milioni l'anno per lei, ce lo ricordiamo per lei, perché non Suning non potrebbe dare 50 milioni l'anno a Messi? Non potrei mai rinunciare ai vostri WhatsApp vocali, 349-238-6666. Ora, ho fatto ieri insieme a Claudio Schiattone un pensiero impuro che non riguarda naturalmente me e lei, ma questa situazione, e che voglio condividere con Marco Berinazzo, che salute, con Stefano Borghi. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao Stefano. Ben ritrovati. Allora, non parte dal presupposto che non l'Inter, ma Suning può comprare Messi. Operazione che adesso Berinazzo ci dice quanto può venire al chilo. In una prospettiva globale l'affare ha un senso, l'ascoltatore ha detto una cosa non banale, e non è casuale che l'indizio arrivi da una TV cinese, non è stato Zhang a mettere il cartello, ma chiaramente la TV di sua proprietà, e questo si sa. E l'idea impura che Suning possa usare l'Inter come cavallo di Troia con dentro Messi per conquistare il mercato cinese. Magari sto esagerando, Marco? A te che non ti sei. Marco? Eccomi, scusate ragazzi. Eccolo. Sai, il fascino di un'operazione Messi Inter Suning, insomma, è palese. Peraltro appunto gli stipendi in qualche modo oggi si troverebbe anche il modo di pagarli, visto che Messi potrebbe rientrare nel famoso decreto crescita, quindi il costo fiscale si dimezzerebbe, essendo sì, un giocatore che viene dall'estero. È evidente però che Messi, diciamo, se non ti costa uno stipendio da 50 milioni, i 100 milioni che costerebbe un altro giocatore, comunque parleremo di uno stipendio superiore ai 70 milioni all'anno. Ronaldo alla Juve ne costa un'ottantina, perché in caso di Ronaldo non c'era il decreto crescita e quindi quell'agevolazione non c'era. È evidente che però se Ronaldo pesa tanto sui conti della Juve, che già viaggia verso i 500 milioni di fatturato, ancora di più ne costa in termini relativi Messi all'Inter, proprio in una fase di crescita. Ovviamente potrebbe aiutare le crescite dal punto di vista delle entrate commerciali, no? La crescita del club, e quindi immaginiamo cosa vorrebbe dire l'associazione dei tre brand Messi, Inter, Suning a livello globale. Però ci servirebbe un percorso di medio-lungo termine, e l'Inter dovrebbe assorbire nei primi anni, insomma, un rosso importante, un po' come sì, sta capitando alla Juve per Ronaldo. Quindi è questa un po' la valutazione che andrebbe fatta in questo tipo di operazione, che tendenzialmente per una squadra che ha le aspirazioni dell'Inter, come dire, è una di quelle operazioni che ti permette di accelerare di 5 anni il percorso di crescita. Sì. Stefano Borghi racconta la Liga su DAZN, lo sapete tutti, voglio sapere qual è la tua sensazione più che opinione. Sì, esatto, perché parliamo di sensazioni. Io la prendo dall'altra ottica, ovvero dall'ottica Messi e dall'ottica del Barcellona. Io credo che, insomma, se qualche anno fa si fosse parlato di un Messi via dal Barcellona e di un Ronaldo via dal Real Madrid, vi avrei detto che la sensazione era molto più fattibile un Ronaldo via dal Real Madrid, perché sono psicologie diverse, sì, sono storie diverse e sono legami diversi col club. Io continuo a pensare che mi risulterebbe molto difficile vedere il Barcellona senza Messi e Messi con un'altra maglia. Credo che anche nell'ultimo anno Messi abbia cambiato molto il suo modo di comunicare, il suo modo di porsi, tant'è che l'Equipe a un certo punto fa addirittura una prima pagina con il Che del Barça e il fotomontaggio di Messi tipo Che Guevara, no? Perché? Perché Messi si sente molto di più capopopolo, e nell'ultimo anno c'è stata una guerra, neanche tanto nascosta, ma anche apertissima, fra la squadra e la dirigenza. Il presidente è sfiduciato, ci saranno le elezioni a Barcellona, e io credo che queste cose rientrino un po' nella campagna elettorale di Messi. Sì, esattamente, cioè contro, non tanto a favore quanto certo, contro la figura di Barcellona. Quello, perché... Guarda Stefano, è quello che ho detto anch'io prima, la mia sensazione è uguale alla tua, cioè che Messi chiaramente contro Bartomeu ormai volano gli stracci in maniera aperta e pubblica, stia dicendo: vuoi essere tu il presidente che ha fatto andare via Messi dal Barcellona? Questo è lo strumento di pressione. C'è una cosa però che, insomma, che mi fa pensare, le reazioni. Barcellona scocciato, l'ha fatto sapere in qualche maniera, no? Però non è che insomma quel cartello l'abbia messo una TV che non c'entra nulla con Suning. No, certo. E nemmeno Messi, mi sembra che non ci siano manifestazioni di particolare dissenso. No, no, non si è scandalizzato di sicuro, non ha detto niente. Io penso che insomma sia un po' anche il gioco delle parti, però ti dico, parlando di sensazioni, perché poi il calcio ci dimostra quotidianamente a tutti i livelli che tutto può succedere, io continuo a fare molta fatica ad immaginare Messi con un'altra maglia in Europa, perché poi se vorrà decidere di tornare in Argentina anche dalla carriera, ma anche quello mi sembra piuttosto difficile, però vedremo. Io credo che questi messaggi, che oltretutto non sono nuovi, ma riproposti, siano più da ascrivere a un rapporto Messi-dirigenza del Barcellona che non effettivamente delle dinamiche di mercato che si stanno sviluppando. Sì, d'altra parte il mio pensiero impuro, Marco, continua pensando alla penetrazione nel mercato televisivo asiatico, le potenzialità di penetrazione nel mercato televisivo asiatico di un Inter con Messi, e Suning non può essere indifferente a questa situazione. No, tanto più che Suning vende anche, ha comprato, vende e trasmette le partite, appunto, della Serie A in Cina, quindi da questo punto di vista anche gli sviluppi delle piattaforme streaming di Suning si legherebbero al progetto. Il tema non è tanto se Suning, in quanto proprietario dell'Inter, può permettersi un ingaggio da circa 80 milioni, come abbiamo detto, chiaramente Suning non ha di questi problemi. E nell'ottica del vituperato per play finanziario, e questo potrebbe, come dire, creare qualche problema all'Inter. Citofonare Manchester City in caso di problemi. Beh, si possono assoldare gli avvocati del City, esatto, e collaborare con il City e risolvere la questione, ma il tema è un altro, cioè che l'Inter sta facendo un percorso di crescita importante, come ho detto prima, Messi ti permetterebbe di accelerarlo di 5 anni, sopportando delle perdite in una prima fase, ma non c'è dubbio che se Suning, come dire, potesse davvero realizzare l'operazione, vedesse uno spiraglio concreto, credo che si rifletterebbe molto molto attentamente sulla possibilità di creare questa partnership con un giocatore globale, certo, come Messi. Certo, no, insomma, sono, certo, d'accordo. Borghi, insomma, che difficilmente vedo una maglia diversa da quella del Barcellona sulle spalle di... Poi si può discutere sull'estetica della prossima maglia dell'Inter. Ieri dicevo un motivo per cui Messi non verrà è che quella maglia gli rovina un po' l'immagine, quella zigzag, ma questi sono gusti personali, non so se magari a voi piace da impazzire, a me no. Anche a Barcellona, qualche magliaccia. Okay, bravo Stefano, è quello, esattamente quello che mi ha risposto ieri il mio interlocutore, che era Marchetti, era Luca Marchetti, anche a Barcellona non hanno scherzato con questo è vero. Qualche pigiamino color pastello se l'è dovuto mettere. Senti, invece affrontiamo un discorso che a Berinazzo interessa moltissimo, anche più di questo di Messi. Il Barcellona che va verso il Napoli con 14 giocatori, compresi portieri di riserva al momento, abili e arruolabili, con Arthur renitente alla leva, con una squadra che ha di fatto perso una Liga che aveva in mano, è autorizzato Berinazzo ad avere fiducia? Sì, direi di sì, perché è una partita secca di fatto, che il Napoli ha lo svantaggio dell'1-1 dell'andata, però bisogna capire dove si andrà a giocare, anche se la UEFA sembra che abbiano chiesto soltanto informazioni alle autorità sanitarie della Catalogna, ma che sia ancora lontana una decisione, magari si deciderà all'ultimo momento, sì. Insomma, si sarebbe potuto andare direttamente in Portogallo, insomma, ma però il problema è la situazione, lo stato anche di salute del Barcellona, Stefano. Sì, secondo me ci può essere fiducia, una fiducia però prudente, perché in tutto ciò, anche con il Barcellona messo come è messo, ed è una situazione figlia della gestione di tutta la stagione, che è stato un disastro fondamentalmente, però il Napoli è di fronte a un'impresa gigante da compiere, perché poi appunto affronti Messi, affronti Suarez, affronti Griezmann, però quest'anno io ho sempre visto un Barcellona incompleto, che non ha mai espresso veramente il suo potenziale. Oltretutto adesso c'è il problema appunto del fatto che c'è un solo difensore centrale che oggi giocherebbe la partita, ovvero Piqué, gli altri, anche i ragazzi aggregati, non sono in condizione. C'è questo problema di Arthur, che si sono creati loro perché non l'hanno gestito bene neanche appena prima di venderlo, tra le parole dell'allenatore e le parole della società. Io ti dico, l'unica cosa che mi ha fatto un po' cambiare ottica è stata l'ultima partita del Barcellona, perché la penultima era quella di una squadra veramente in grossa crisi. Disarmo, sì. L'ultima invece va bene contro l'Alavés all'ultima giornata senza niente in palio, però anche il modo in cui Messi non solo ha giocato ma ha parlato dopo, dicendo ci siamo parlati, ci siamo spiegati, abbiamo chiarito, adesso abbiamo fame, è una cosa da considerare. Detto che, questo mi sembra scontato, se si fosse giocata la partita prima del lockdown, il Napoli avrebbe avuto meno possibilità di quelle che ha oggi. Sicuro, sicuro. Senti, ti chiedo ancora una cosa prima di salutarti, che riguarda invece le altre. Siviglia e Getafe. Siviglia con problemi che sappiamo, legati a un giocatore positivo. Getafe, di cui non, insomma, ha fatto un'ottima stagione, ma non so come stia attualmente, come possa stare attualmente. E poi, se condividi la mia impressione, che l'Atletico Madrid, in una prospettiva meravigliosa, sia una squadra, forse la squadra di quel gruppo lì che può dar maggiore fastidio all'Atalanta. Sì, sono d'accordissimo su questo, perché l'Atletico Madrid è una squadra abbastanza nuova rispetto alla prima parte di stagione, l'impresa di Anfield ha fatto fare un click, e perché l'Atletico Madrid di quell'otto lì è l'unica squadra che potrebbe andare a pareggiare la fame e l'impatto agonistico dell'Atalanta, con una maggiore abitudine a giocare quelle partite. Per cui, paradossalmente, rischio di dire una stupidaggine, ma ho questo pensiero, meglio affrontare un Paris Saint-Germain che non un Atletico Madrid, sì, per l'Atalanta. Che paradossalmente, perché poi vedi i piedi del Paris Saint-Germain, anche senza quelli di Mbappé, sono comunque piedi molto pericolosi. Sì. Getafe e Siviglia sono le squadre peggiori dal punto di vista dello stile che potessero trovare Inter e Roma, perché l'Inter avrà di fronte la squadra più rognosa che c'è in Europa. È vero che proprio questa sua caratteristica di agonismo estremizzato l'ha portata ad avere delle difficoltà chiare dopo la ripartenza, perché Getafe era una squadra che lottava per la Champions e invece ha avuto un abbassamento netto del rendimento, perché è una squadra che ti viene addosso, che ti fa giocare male, è la più fallosa d'Europa, è la più ammonita, è una squadra terribile da affrontare, ti saltano alla giugulare, e adesso logicamente non possono avere questa brillantezza di condizione, però è una squadra che è compatta e per superare il Getafe devi fare molta molta fatica. Il Siviglia invece è una squadra che gioca bene a calcio, gioca bene a calcio. È una squadra che è molto brava nel non perdere le partite. Ogni tanto inciampa in qualche pareggio, però il Siviglia non perde mai. E su una gara secca è un problema. Sì. Poi adesso lì la questione ambientale è per quello che sta succedendo, c'è una positività, ci sono stati anche dei giocatori che non si sono comportati perfettamente secondo le norme, per cui c'è un po' di rumore casino attorno a questo. Un po' di casino c'è e non manca tantissimo a quella partita. Grazie Stefano. Infatti, a voi, un piacere, un saluto a tutti. Ciao prossima. Stefano Borghi, traffico un attimo, poi andiamo in Inghilterra. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Stefano Boldrini, penna inglese della Gazzetta dello Sport, il nostro amico. Ciao Stefano. Pronto? Eccoci, ciao Stefano, buongiorno. Eccoci. Ciao. Buongiorno a tutti. Senti, c'è Marco Beninazzo collegato con noi. Prima dicevo a lui, se l'Inter dovesse prendere Messi e poi avere problemi col fair play finanziario, citofonare Manchester City, i problemi spariscono. Ma io sul mercato sono sempre molto, come dire, pronto a qualsiasi scenario, anche se io devo dire la verità, a me la storia di Messi all'Inter o comunque che Messi possa andare via da Barcellona mi pare davvero molto molto complicato. Cioè, in questo momento mi pare fantamercato, poi per carità, non è la mia specialità al mercato, quindi posso sicuramente sbagliare. Sì, sì. Invece un argomento che interessa entrambi, riparto da Marco, come hai preso da tifoso del Napoli lo scudetto di Sarri? Perché ci sono pareri discordanti. Diciamo che il titolo sportivo per un allenatore che ha fatto bene a Napoli, insomma, fa sempre piacere. Insomma, non so quanto abbia fatto piacere a tipo i juventini che si aspettavano magari un gioco diverso, più scintillante. Credo che al di là di tutto abbia giocato molto la questione delle motivazioni. E forse magari vedremo un'altra Juve in Champions. Io ho una gratitudine, diciamo, nei confronti di Sarri finisce lì, insomma. Sì. Ora da tifoso si passa al nuovo allenatore. Si passa al nuovo allenatore, però Stefano, è il destino di Sarri. Sarri che vince non piace, l'anno scorso al Chelsea come quest'anno alla Juventus. Beh, a Sarri va dato atto una cosa, di essere andato a lavorare anche per motivi di prestigio, di portafoglio, in ambienti molto particolari. Il Chelsea non ha mai avuto una tradizione di bel gioco, con Abramovic conta vincere, e Abramovic ha licenziato molti allenatori, quindi è andato in una piazza non facile e in ogni caso ha ottenuto il meglio che potesse ottenere con Sarri, perché ha vinto l'Europa League, arrivò in finale di Coppa di Lega perdendola con un Manchester City stellare, in campionato ha fatto, è arrivato dietro i due colossi che erano appunto Liverpool e Manchester City. Obiettivamente più di quello che ha fatto non era possibile. Devo dire che forse a livello di gioco comunque qualche cosa si è visto nel Chelsea, così come secondo me si è visto qualcosa più di quanto si creda nella Juventus, perché per esempio lui è riuscito a far giocare insieme Dybala e Cristiano Ronaldo. Sì, io credo che non sia facile andare contro la storia. La Juventus è un altro club nel quale l'unica religione praticante è quella del successo. Sì, sì, certo. Tutto il resto spesso è stato eresia, per cui io credo che nel giudizio si debba essere un po' più cauti. Sicuramente avrebbe potuto regalare qualcosa di più dal punto di vista dello spettacolo, però vi ribalto la questione: se la Juventus fosse stata più spettacolare e più bella, ma non avesse vinto il campionato, e no, gli levano la pelle, che cosa avremmo detto? Ma scherzi, poi è chiaro che molto sarà agganciato a quello che succede il mese prossimo. A questo proposito, Stefano, ti chiedo ancora questo: io considero dall'inizio il City, a differenza di altre stagioni, in missione per quella Champions. È secondo te onestamente abbordabile per questa Juventus? Perché l'incrocio potrebbe esserci. Ma io credo che il lockdown, quello che è successo in questi mesi, renda davvero difficile fare delle previsioni. Il City è una squadra che può, quando è in giornata, ma quando è in giornata lo capisci subito, dopo un quarto d'ora ha già capito se il City è in giornata o meno. Uh-huh. E quando il City sta bene, gli va tutto bene, insomma è una squadra che può vincere con chiunque. Bisogna vedere se recupereranno Agüero, che è comunque un giocatore fondamentale, e vedere comunque, perché in Champions, in partite secche in cui non c'hai la formula dell'andata e del ritorno, perché adesso si farà tutto sulla formula secca, e certe volte quelle amnesie, quei vuoti della difesa possono costare cari. Oggi proprio hanno acquistato dal Bournemouth il centrale olandese Ake, che è un ottimo giocatore, che tra l'altro stava al Chelsea. Il Chelsea se l'è lasciato così, se l'è lasciato sfuggire. Loro hanno preso questo giocatore che è un giocatore alla Guardiola, perché è un giocatore che gioca la palla. E quindi, ripeto, il City è una squadra che in teoria può vincere alla Champions, però se dovessero arrivarci, perché non ci dimentichiamo che tutte e due devono fare le gare di ritorno, in una gara secca la Juve ha le sue possibilità, senza dubbio. Anche se amnesie difensive ci sono da una parte come dall'altra, anzi quelle della Juve sono particolarmente preoccupanti. Grazie Stefano, abbraccio. Grazie a voi. Ciao, ciao Stefano. Io invece con Marco Berinazzo volevo approfondire un altro aspetto che riguarda le nostre cose, perché oggi l'assemblea di Lega particolarmente importante, anche perché si discute del format del prossimo campionato. A proposito, sentite Gravina. Una squadra forte, forte durante il campionato ed è forte anche durante un format diverso. Quello che a noi interessa in questo momento è fare i conti con la realtà. La realtà ci dice che dobbiamo incastrare in modo perfetto le gare del campionato, le gare delle nazionali, ma soprattutto le gare poi delle nostre squadre impegnate a livello internazionale. Si torna a discutere di playoff, Marco Berinazzo. Prima dimmi. Paradossale, diciamo, se ci si andasse sulla prossima stagione, dopo averli rifiutati in questa stagione, dove magari avrebbe avuto più senso concentrare le partite, perché oggettivamente ce ne sono state alcune sostanzialmente inutili sportivamente, utili per i diritti TV, un po' meno per la resa tecnica, agonistica, mettiamola così. Incidere sulla prossima stagione, addirittura, come si dice, con due gironi e poi con i playoff, cioè con una formula assolutamente innovativa, potrebbe essere una soluzione, soprattutto se, come ha detto Gravina, non si riuscisse a partire a settembre, ma si partisse a inizio ottobre. A quel punto è evidente che devi trovare un'altra formula, perché non ci sarebbero proprio le giornate per disputare regolarmente tutto il campionato, più le coppe europee, più i mesi della nazionale. Però ripeto, sarebbe paradossale, ve l'ho rifiutato quando si trovava in una situazione eccezionale, invece partire in un nuovo campionato avendo una formula nuova su cui credo molte squadre avrebbero da ridire. Sì, sarebbe peraltro un unico nei grandi campionati europei, Marco, mi sembra davvero un azzardo molto grande, al di là delle date, dei calendari difficili, eccetera eccetera. Credo assolutamente di sì. Io ho sempre trovato affascinante la formula dei playoff, ma soprattutto, ripeto, in una situazione eccezionale come quella che era immediatamente post-Covid. Partire adesso, immaginando che tutti siano d'accordo su una formula mai utilizzata se non nell'anteguerra, quella di un doppio girone, non so, settentrionale, meridionale, poi fare playoff, mi sembra un po' azzardato, quantomeno, insomma, poi già vedo litigare i presidenti anche su questa possibilità. Sì, in questo caso secondo me le liti sarebbero parecchio lunghe, molto oltre l'inizio del campionato. Grazie Marco, a presto. Grazie a voi, a presto. Ciao Marco Bellinazzo. Allora, noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudio Schiattone in redazione, Pietro Lacorte e Gianmarco Ferronato in regia. Tutti convocati domani alle 14, dalle 14 alle 15:30 ogni giorno, me lo ricordo, orario estivo. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su Aruba.it.